Buonasera a tutti, bentornati, bentrovati a tutti quelli che sono all'ascolto di Radio Cerrano Web in questa freddissima serata di marzo. Fuori qui sta un po' nevicando e naturalmente stasera vi ho portato, in onore della festa della donna, vi ho riportato in studio Alexia P. Buonasera a tutti, quanto mi siete mancati, tutti mi siete mancati, tantissimo, è un duro colpo tornare dagli studi di RTL a questi di Radio Cerrano, però mi hanno concesso la liberatoria, quindi vi ho fatto questa sorpresa. Ti hanno permesso di venire in diretta, sì. Di solito non lo fanno, però no, insomma. No. Mi hanno detto vai. Allora, ben trovati con il programma Schegge, un programma che naturalmente tratta di attualità, tratta di... Soprattutto ultimamente ci stiamo un po' specializzando in promozione territoriale, culturale del nostro bellissimo Abruzzo, e questo vedo che offre anche... diversi spunti di discussione, e naturalmente questa sera rimaniamo incanalati su queste argomentazioni. Perché, Alexia? Perché questa sera parliamo del Cammino d'Abruzzo, promosso dall'associazione A Piede Libero, in collaborazione, se non sbaglio, anche con l'Università degli Studi di Teramo. E che cos'è, insomma, il Cammino d'Abruzzo? Lo anticipo io, ce lo facciamo dire nostro ospite? Beh no. Se no gli ospiti che ce li abbiamo a fare? Beh no, perché abbiamo ospite con noi Marco Straccini che è un po' portavoce. Benissimo, vai tranquillo. Che è il portavoce dell'associazione A Piede Libero. Ciao Marco, buonasera. Ciao a tutti, buonasera e grazie innanzitutto per l'invito. Grazie a te per essere qui con noi. Allora, io ecco qui. Allora, Marco, a te l'arduo compito un po' di presentare la tua associazione, mentre io spendo semplicemente due parole per far capire di che cosa si tratta, nel senso che stiamo parlando del Cammino d'Abruzzo, quindi la vostra è un'associazione di camminatori e avete in mente un bellissimo progetto che sembra essere stato, è stato un po' preso a modello sia dall'Università di Teramo, come diceva Alessia, ma anche dalle quattro province abruzzesi, perché nei giorni scorsi è stato firmato un protocollo di intesa tra le quattro province con la sigla del presidente dell'Unione Province Italiane d'Abruzzo, Angelo Caruso, che poi contatteremo un po' più tardi. E quindi, insomma, adesso passiamo direttamente a te la parola affinché tu ci racconti un po' di che cosa si tratta e da come l'avete pensata, perché. Partiamo dagli inizi, allora. Partiamo da, diciamo, dove è nato questo grande progetto, ma soprattutto, più che progetto, possiamo dire che è stato prevalentemente un sogno, diciamo che è partito tutto così, perché la nostra presidente, la fondatrice dell'associazione, appunto il Cammino d'Abruzzo, come avete detto in precedenza, nel 2017 più o meno ha iniziato a camminare, in Abruzzo ovviamente, perché voleva, diciamo, il suo scopo era quello poi di riuscire a regalare questo cammino, questo percorso, poi effettivamente proprio la popolazione abruzzese, a tutti gli abitanti del territorio, perché aveva già visto, affrontato altri percorsi precedentemente in Italia, anche fuori, aveva visto anche l'impatto che poi può avere un cammino così grande e così importante sul territorio, soprattutto sul territorio abruzzese. Quindi, diciamo, tutto è nato da qui. Sono state inizialmente, diciamo, delle passeggiate che ho iniziato a fare, e appunto partendo dalla parte pescarese, passando per vari tipi di territori, passando appunto dalla collina, il mare, la montagna, fino ad arrivare a creare questo enorme anello di circa 630 km. Detta così sembra veramente semplice e veloce, però non è stato proprio così. Inizialmente, allora, dimmi, sì, dimmi. Vai. Inizialmente è partita da sola, piano piano poi si sono aggiunti degli amici che sono diventati sempre di più. Quindi diciamo il sogno, che inizialmente era veramente diciamo piccino piccino, è diventato sempre più grande. Vista anche poi il successo riscontrato anche diciamo all'inizio a livello semplicemente amichevole, discutendo con le persone appassionate di camminate o appunto del territorio abruzzese, eccetera. Nel 2019 si è iniziato a mettere veramente mano a, appunto all'idea di creare un'associazione che potesse valorizzare il tutto. E io personalmente, ad esempio, sono parte integrante del direttivo, insieme appunto ad Orietta Darmi, che ho nominato prima, che è la presidentessa, e insieme a me ci sono altre 4 persone, appunto. Siamo noi il direttivo, e sono stato contattato da Orietta appunto fine 2019, e a gennaio del 2020 abbiamo creato l'associazione Abruzzo a Piede Libero. Da lì abbiamo iniziato poi a sviluppare il progetto in maniera più seria. Quindi siamo stati scelti dall'Università di Teramo, come è stato annunciato in precedenza, come modello per i loro studi, quindi siamo stati aiutati anche da loro a venire poi conosciuti meglio, riconosciuti a livello ulteriore sul territorio, e siamo riusciti in questa maniera piano piano ad arrivare a qualche giorno fa appunto alla firma del protocollo d'intesa con le 4 province. Diciamo, questa è stata la storia detta velocemente, poi torneremo magari più dettagliatamente sui vari punti. Benissimo, tu c'hai qualche curiosità? Ma la mia curiosità è come, io ho letto un po', insomma, in cosa consiste questo cammino, 630 chilometri, 33 tappe, 630 chilometri, quasi 700, sì. Leggo. Esattamente. 69 comuni, come l'avete... Sono 69 comuni che vengono toccati dal cammino, giusto? 70. Sono 69 borghi, sono 69 chilometri e sono 33 tappe, per come diciamo è stata strutturata da noi, sì. Poi, come ovviamente... l'avete scelte? Come sono stati scelti i comuni? Le tappe, come sono state scelte? È stato tutto scelto, come ho detto inizialmente, diciamo, è partito tutto quasi come se fosse un gioco. Quindi nulla è stato progettato sedendosi su una tavola con una cartina geografica e decidendo il percorso da fare, anche perché la maggior parte dei percorsi che poi si andranno a percorrere una volta che qualcuno intraprenderà il cammino d'Abruzzo sono percorsi nuovi, la maggior parte sono appunto sterrati, sono extratturi, ci saranno sicuramente dei punti in cui andremo a solcare dei percorsi magari del CAI o dei pezzi di strada asfaltata, ma sono veramente minimi. La maggior parte dei percorsi sono stati poi tutti quanti tracciati da noi personalmente, da noi, dai nostri amici che ci hanno aiutato in questa avventura che è stata veramente quasi titanica, perché 630 chilometri sono veramente tanti da, appunto, sia da percorrere ma anche da tracciare. Perché poi sono... Sì, infatti io ti volevo chiedere questo, Marco, perché nell'attività di... preparazione di questo programma, poi io ho approfondito insieme ad alcune persone che si occupano anche di oasi naturalistiche, eccetera, e il vostro cammino passa attraverso queste oasi. Ora, il progetto naturalmente parla di un circuito che insomma coinvolge tutto l'Abruzzo, detto in sintesi. Ma questo significa che voi avete tracciato 670 chilometri di strade, quindi che in qualche modo chi si rivolge a voi trova le indicazioni dove dormire, dove trovare assistenza, anche sul percorso avete già segnato i percorsi con le indicazioni stradali, nel senso proprio di oppure è un qualcosa che dovrà arrivare e dovrà anche coinvolgere altri enti, perché lì nel vostro protocollo si parla anche di Parco Nazionale d'Abruzzo, di Parco Nazionale del Gran Sasso e della Maiella. Ecco, molti ho visto che sono incuriositi dal vostro progetto, ma vogliono capire a che punto si trova e quanto concreto ad oggi c'è. Certamente, allora partiamo dall'inizio, diciamo. La parte concreta, appunto, è che è stata creata un'associazione, che sono state coinvolte le province, che la regione ne ha conoscenza, che tutto il percorso è comunque stato tracciato. Ovviamente manca purtroppo ancora la segnaletica, perché ecco, il nostro obiettivo certamente è quello poi di andare ad installare una segnaletica con un nostro simbolo appunto riconoscibile, che possano essere dei paletti, che possano essere delle rocce verniciate oppure dei segnali tipo quelli che fa il CAI sugli alberi. Ci saranno, ovviamente, stiamo lavorando anche appunto, protocollo d'intesa è servito soprattutto perché i comuni vengono a conoscenza di questo progetto e ci aiutino anche a trovare poi appunto delle sistemazioni utili, quindi bed and breakfast, punti di ristoro, eccetera. Quindi diciamo tutti quanti devono essere coinvolti. Noi abbiamo già iniziato. Abbiamo già, a parte diciamo le persone del direttivo, già circa 300 associati all'interno dell'associazione Il Cammino Abruzzo a Piede Libero. E tra questi ci sono anche dei proprietari comunque di strutture lungo il cammino che sono state avvisate da noi o che comunque ne sono venute a conoscenza tramite la pagina Facebook, il sito web, eccetera, eccetera. L'opera più grande e diciamo per noi difficile da affrontare sarà appunto quella della segnaletica, perché il cammino è molto lungo, sono 630 km, appunto la segnaletica deve rispettare, ci sono delle linee guida per la segnaletica, quindi abbiamo bisogno di un certo numero di segnali ogni tot metri, diciamo neanche chilometri. E abbiamo bisogno di rispettare dei punti dove ci siano poi delle zone con l'acqua, con le fontane, eccetera. Quindi diciamo dobbiamo trovare le risorse adesso per poter poi andare ad installare la segnaletica. Perfetto, quindi insomma abbiamo capito che il coinvolgimento degli enti servirà anche un po', in qualche modo dovrebbe servire a trovare risorse, perché già se ogni provincia fa del suo sul proprio territorio, siamo a cavallo, giusto? Esattamente, esattamente. Basterebbe davvero poco, perché poi i comuni, come abbiamo già detto, sono coinvolti, sono tanti, quindi poi andando a dividere il numero totale dei chilometri per il comune non sarebbe poi tanto lavoro da dover effettuare. E poi ovviamente ci auspichiamo anche che tutti i comuni, non solo quelli che diciamo vengono proprio toccati da vicino, ma anche quelli limitrofi, poi si impegnino a rispettare ancora di più il territorio e tutto quello che viene creato e cercare di mantenerlo appunto nelle migliori delle condizioni. Bene, io propongo di mettere un po' di musica intanto e nel frattempo cerchiamo di contattare Tommaso Navarra, presidente del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, che ci ha dato la sua disponibilità. Vediamo un po' se mantiene le promesse. Provisions and not to be. The key word is survival on the river team. Introduce me to that big blonde. She's got a touch of Tuesday well. She's wearing ambush and a French tweed. She's got us wild and she can tell. She loves to live more. She's got the right dynamic for the liberty. Well, I can't wait till I move to the city, till I finally make up my mind to learn design and study overseas. Do you have a steady boyfriend? I hear you're mad about Ruby. I like your eyes, I like them too. He's an artist, a pioneer. You've got to have some music on the river tea. Tentando disperatamente di metterci in contatto con i nostri interlocutori che ci avevano dato l'assicurazione di essere presenti, ma evidentemente a loro interessa poco, no? Vabbè, accontentati questa, della mia presenza. Questa opera di promozione che noi facciamo senza che nessuno cacci fuori una lira, quindi tra parentesi. No, queste cose mi fanno un po' arrabbiare perché, ripeto, stiamo parlando di un argomento, e lo ripeto per i nostri ascoltatori, a mio avviso importante, cioè l'iniziativa di un'associazione che è l'associazione a piede libero, Abruzzo a piede libero, sì. Di cui abbiamo un rappresentante, cioè Marco Straccini, in diretta con noi, che è una iniziativa così come il Cammino dei Briganti, ad esempio, che la scorsa settimana o due settimane fa abbiamo trattato insieme al sindaco di Sante Marie, e che ci ha spiegato in sostanza anche l'importanza di queste iniziative sul territorio, che poi smuovono anche l'economia. E allora, rappresentanti delle istituzioni che in qualche modo poi snobbano anche queste cose, io non le capisco sinceramente. Non le capisco, mi fa anche un po' arrabbiare, perché insomma, a parte Marco è un rappresentante di un'associazione, quindi sono 300 cittadini che si stanno mettendo al servizio della collettività. Ma ci sta gente come questi qua che sono pagati anche per fare sta cosa. Vabbè, polemiche a parte, noi continuiamo a parlare dell'importanza della camminata, del benessere che produce, della meditazione, del lavoro su se stessi. No, io sì, ma volevo anche porre l'accento su questo progetto perché la cattedra di diritto tributario della Facoltà di Giurisprudenza, che è già titolare poi di un progetto di ricerca nazionale avente ad oggetto lo studio degli strumenti tributari e finanziari per la tutela e la promozione del patrimonio storico, artistico e culturale, che ha eletto questo progetto a modello di studio per un approfondimento delle tematiche che sono emerse nel corso della ricerca. Allora, questo, ecco, sottolinea quanto importante sia questo turismo lento, giusto Marco? Sicuramente, sicuramente. Che molla può essere questo nuovo turismo lento, che poi in qualche modo è indotto anche dalle nuove preferenze dei turisti, sia italiani che europei? Diciamo che ultimamente appunto c'è una fortunatamente dico tra l'altro, una riscoperta della natura e appunto della vita lenta, del mangiare più sano, e quindi sicuramente il nostro territorio calza a pennello con queste filosofie, e quindi appunto siamo contenti di questo e soprattutto non vediamo l'ora che il territorio ne benefici, perché noi siamo un'associazione, noi stiamo creando questo progetto, ma poi effettivamente ognuno potrà partecipare indipendentemente da noi, quindi il progetto sarà fruibile a tutti quanti, a chi vorrà, e siamo sicuri che una volta che verrà realizzato magari tante persone che al momento diciamo non ci stanno pensando, magari poi conoscendolo, sentendone parlare ci si avvicineranno, diciamo questo è il nostro obiettivo. Anche perché poi ricordiamo, scusa se ti interrompo Marco, che l'anello sarà percorribile non solo a piedi ma anche in mountain bike, giusto? L'anello sarà percorribile come una persona più preferisce, perché sicuramente è percorribile a piedi ed in mountain bike, anche perché diciamo tra oltre ai vari tesserati, siamo qua, circa 300, ci hanno aiutato anche altre persone, tra cui vari gruppi di appunto appassionati amatoriali di mountain bike, perché appunto per tracciare il territorio si deve andare fisicamente sul posto, e con la bicicletta è stato molto più semplice e anche più veloce, quindi magari le prime volte siamo andati noi, poi sono passati loro di nuovo per tracciarlo meglio, magari vedere se c'era qualche percorso migliore, eccetera. Volendo, probabilmente si potrà percorrere a cavallo o come meglio si crede. Sicuramente ci saranno dei tratti che saranno percorribili anche in sedia a rotelle. E questo è importante, dare la possibilità a tutti di fare questa cosa, questa esperienza. Sicuramente, anche perché io diciamo ne sono un promotore, anche perché io sono il primo ad essere in questa condizione, quindi è una cosa che mi tocca nello stretto. Ovviamente non sarà possibile rendere tutti i 630 chilometri accessibili, ma sono sicuro che i disabili non si scandalizzeranno di questo, ma più che altro apprezzeranno quel poco che si riuscirà a fare. Sicuramente abbiamo individuato la tratta costiera, quella della costa dei Trabocchi, ma anche quella poi che va verso Roseto, accessibile. E poi quando diciamo inizieremo anche ad installare tutta quanta la segnaletica, cercherò di andare io di persona e vedere poi cosa si potrà fare di più anche nelle parti montane. In più ci sono anche altre associazioni nel territorio che utilizzano le Jolette, e tra l'altro proprio questo fine settimana passato hanno percorso un tratto del cammino d'Abruzzo nella zona di Roseto, e quindi speriamo che anche con loro si crei una sinergia e che poi possano ad andare a percorrere altri tratti del cammino d'Abruzzo. No, questa cosa che fate sinceramente è meritevole al 100%, nel senso che quello che vi spinge, noi lo percepiamo, io lo percepisco, è proprio l'amore per la propria terra. E io credo proprio, avendo partecipato più di una volta a convegni, workshop, eccetera, che la promozione della nostra regione passa proprio attraverso questa cosa, cioè attraverso la conoscenza della propria regione. E molti di noi abruzzesi non conoscono le bellezze di questo territorio, non lo conoscono, e per questo non lo apprezzano e non lo sanno vendere, e questa è la mia opinione. Noi, la nostra radio è una radio che, come potete vedere, è legata ad un parco marino, infatti si chiama la radio del parco, siamo partiti da lì. Siamo partiti da lì perché siamo stati tutti concordi qui in radio nel prendere questa linea editoriale. Vabbè, poi ci siamo allargati, sport, moda, costume, eccetera, però principalmente la nostra linea era proprio quella di trasmettere a tutto il mondo, perché poi gli strumenti informatici permettono anche questo adesso, a tutto il mondo il nostro territorio. E un po' le cose ci accomunano, vero Marco? Nel senso che voi da una parte e noi dall'altra cerchiamo di sviluppare questa sinergia. Ma poi ci dovremmo fermare anche su un altro aspetto. Tante tappe sono in borghi che sono diventati quasi privi di popolazione, e quindi permettere alle persone di andarli a visitare in questo modo molto lento, che è quello della camminata, è anche un modo per far vedere appunto le bellezze che abbiamo noi e per farci anche magari un pensierino sull'andare a vivere in maniera un po' più tranquilla e rilassata in questi posti, e quindi consentire il risorgere di certi borghi. No, ma una cosa è certa, ormai è chiaro, lo abbiamo anche analizzato 2 settimane fa parlando del cammino dei briganti, e ricordo che in Abruzzo c'è il cammino dei briganti, il cammino di San Tommaso, il cammino delle terre mutate, ce ne sono diverse di iniziative di questo genere, e in tutte queste iniziative è stato riscontrato, ed ecco perché l'università credo abbia preso a modello questo progetto, è stato riscontrato anche la leva economica che si fa sul territorio. Scherzando, il sindaco di Santa Maria l'altro giorno mi diceva: se vuoi fare un affare, comprati una casa qui nelle nostre zone e fai 6 camere, certo, e le riempirai in poco tempo. C'è il parroco della nostra città che ha trasformato la casa parrocchiale in un bed and breakfast, una specie di bed and breakfast, ed è sempre pieno. E questo è un po' poi lo scopo, diciamo, non principale, ma uno scopo importante, vero Marco? Sicuramente, infatti, diciamo, il percorso sicuramente passa prevalentemente in terreni, come ho detto prima, sentieri o comunque sterrati, però appunto va a toccare i borghi, perché poi il camminatore, il viandante, chiamiamolo come vogliamo, vogliamo che viva anche proprio sia l'atmosfera del borgo, ma anche che poi aiuti economicamente le persone che ci vivono, anche perché nei vari incontri in cui siamo stati si parla proprio di questo, proprio lo spopolamento delle comunità montane in Abruzzo. Non vogliamo questo, vogliamo che i borghi siano attivi, siano vivi, che ci sia movimento e che chi ci abita diciamo possa continuare a starci senza dover per forza andare via per cercare magari un lavoro fuori, altrove. Certo. Anche perché sennò poi nel corso di pochi anni veramente non ci sarà più nessuno nelle aree montane altrimenti. Ma riscontri dall'estero ne avete notati? Ne abbiamo notati sia sul sito che sui canali social. Ci hanno scritto prevalentemente dall'Inghilterra e dal Canada. Ci sono stati penso sia perché magari per via delle varie condivisioni, ma anche penso perché ci siano vari immigrati magari abruzzesi nel corso degli anni che si sono stanziati soprattutto in Canada e che quindi ne siano venuti a conoscenza. E pian piano poi cercheremo, quando avremo più fondi, poi di riuscire magari a sponsorizzarci meglio e farci conoscere anche fuori. Vogliamo appunto che l'Abruzzo venga conosciuto ovunque, non solo dagli abruzzesi, dagli italiani, ma da tutti. È una regione stupenda che merita di essere valorizzata. Abbiamo tutto. Parliamo un po' della vostra associazione. Quindi, ad esempio, io, cittadino qui a Triano, mi iscrivo alla vostra associazione. E che benefici ho? Che cosa posso fare? Che farò? Allora, l'iscrizione è fondamentalmente per diventare associato del Cammino d'Abruzzo. Noi adesso stiamo organizzando delle uscite che sono però propedeutiche a quello che poi sarà il cammino finale. Quindi queste uscite sono di una sola giornata per andare ad esempio a tracciare una tappa o per andare a mettere la segnaletica in una tappa. Poi una volta che tutto sarà completato questo non succederà più, perché ognuno poi sarà libero di fare il cammino come vuole e quando vuole. Anche la mappa che noi abbiamo creato, questo anello che parte da Pescara e finisce a Pescara, è comunque relativo a se stesso. Ognuno può partire dove vuole e finire dove vuole, così come si può iniziare e stopparsi ad una determinata tappa, un determinato giorno e poi riprenderlo magari l'anno dopo. I benefici prevalentemente poi sono che chi vorrà intraprendere il cammino d'Abruzzo tesserandosi avrà diritto innanzitutto ad avere tutta una serie di informazioni per chi veramente vuole effettuare il cammino e poi ovviamente gli verranno fornite cioè le informazioni di cui parlo possono essere i vari bed and breakfast, i numeri utili del territorio, se ad esempio una persona viene dall'estero comunicargli magari la via migliore per arrivare, non lo so, magari atterrare all'aeroporto di Pescara e un determinato autobus, eccetera, eccetera. Diciamo questo fondamentalmente. Poi la cosa più importante è che tesserandosi, diciamo pagando la quota di iscrizione, che sono solamente 15 euro, si va ad aiutare l'associazione a completare tutti i lavori che devono essere fatti, perché comunque siamo un'associazione completamente no profit. E non siamo stati sponsorizzati da nessuno, diciamo tutto quello che è stato realizzato fino ad adesso sono tutti quanti proventi appunto di o piccole donazioni oppure delle circa 300 quote associative che ci sono state. Perfetto, ma una cosa pensavo, quindi voi non è che organizzate le uscite domenicali, no? Nel senso, e magari la creazione nel vostro ambito di guide in questo senso? Allora, questo ancora ci abbiamo pensato. Comunque no, la cosa è, diciamo che non siamo un gruppo che organizzerà giornate, ecco, guide, eventi, roba del genere. Noi una volta finita l'opera la lasciamo al territorio, come ho detto. Perfetto. All'inizio è veramente un regalo, cioè non è che noi stiamo qui per lavorare, tra virgolette, il lavoro lo stiamo facendo adesso, stiamo cercando di realizzare questa cosa, ma poi una volta finito diciamo sarà in mano alle persone, a tutti quanti, sarà in mano ai piccoli, diciamo alla gestione che poi li faranno magari i comuni o le piccole associazioni che poi sono sui vari comuni, perché poi diciamo avremo anche bisogno di aiuti concreti da parte di altre associazioni magari, perché ovviamente solo noi gestire tutta questa quest'area è veramente difficile. Sì, è un'area enorme, in sì, effetti è vero. È tutto l'Abruzzo, comunque sono tutte e quattro le province, ci sono appunto spiagge, colline, campagne, montagne, si passa dal livello del mare a circa 1500 metri di altezza, quindi si spazia veramente dappertutto. È una sorta di crowdfunding, diciamo, territoriale, appunto dedicato al nostro Abruzzo. Io credo che ci siano tutte le premesse per un bellissimo esito, insomma, in questo esattamente. Senso. E un'altra cosa che ci auspichiamo è anche che poi magari prendendo spunto da quello che noi come associazione stiamo facendo, e magari anche altre associazioni che non vengono solcate proprio dal cammino d'Abruzzo, ma magari creino anche dei piccoli cammini pilota che poi raggiungono il cammino d'Abruzzo per poi, diciamo, innestarsi dalle zone che non sono state toccate, perché ovviamente creare un cammino che poi andasse veramente a toccare tutto l'Abruzzo e tutti e 300 i passi comuni sarebbe stata un'impresa veramente impossibile, anche perché comunque si deve seguire una linea, comunque un anello, quindi non si può neanche poi uscire troppo, perché poi è proprio, diciamo, difficile da gestire. Beh, a me sembra una cosa veramente bellissima, proprio perché c'è questa iniziativa proprio regalata, come hai detto, sì, tu, regalata sì. al territorio e ai cittadini. Un'associazione proprio che si sta dedicando e che ci sta mettendo del proprio. Poi infatti alla fine faremo l'appello accorato a iscriversi alla vostra associazione e veramente assolutamente darvi una mano. È la cosa più concreta da fare, diciamo. E stavamo pensando anche a lanciare una raccolta fondi su Facebook, non so, però diciamo ancora in fase di... ci stiamo ancora pensando, dobbiamo ancora vedere un pochino. Però al momento sì, diciamo tesserarsi è l'unico, l'aiuto più importante che ci possono, che ci potete dare. E poi naturalmente c'è questa bella, mi sembra, una sorta, no, di accentrare, comunque mettere in rete tutte quelle informazioni che arrivano del territorio, perché come hai detto tu prima, ognuno poi può agganciarsi nel proprio territorio, dare il proprio apporto e creare anche il suo cammino all'interno di questo anello, e credo insomma che questa sia una sorta di uovo di Colombo, no? Che nessuno, forse a cui nessuno aveva pensato. Noi pensiamo ai cammini famosi come quello di Santiago di Compostela, che ha creato veramente un indotto incredibile. Adesso tutti si stanno rivolgendo, tutta l'Europa un po' si sta rivolgendo a questo tipo di turismo, che è veramente un turismo che ti fa assaporare in pieno il territorio, perché poi un'altra cosa che dobbiamo dire è che questo tipo appunto di turismo, mi ripeto, ti fa fare incontri, ti nascono amicizie, quindi sul territorio, avendo tempo e non essendo il cosiddetto turismo mordi e fuggi, si creano veramente legami importanti. Tu lo sapevi che erano venuti a Roseto? Non lo sapevi? Allora, io propongo perché questo fine settimana pioveva, non sono neanche andata a correre, non li ho neanche visti. Allora, propongo al nostro regista di mettere un po' di musica buona, per favore, e poi ci risentiamo fra un po', sempre in compagnia del turismo slow, del cosiddetto cammino. Ci stiamo occupando ancora di un cammino, questa volta stiamo parlando di un progetto veramente ambizioso, che è quello del cammino d'Abruzzo, fatto dall'associazione Abruzzo a Piede Libero, che non è un'associazione di ex carcerati, ma è un'associazione di camminatori, ma più che di camminatori, è un'associazione veramente appassionati, sì, perché amanti dell'Abruzzo, è vero. Allora, grazie che mi hai aiutato con queste parole per quello che volevo dire. Vai, Carlo. Quante gocce derrocciate intorno a me, cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campana, forse no, e sveglia, mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. E la vita nel mio petto batte piano, respira la neve, penso a te. Quanto verde tutto intorno, corpi un lilla, sembra quasi un mare l'erba. E leggero il mio pensiero vola e va, quasi paura che si perda. un cavallo tende il collo verso il prato, resta fermo come me. Faccio un passo e mi vede, è già fuggito. Respiro la nebbia, penso a te. No, cosa sono adesso non lo so. Sono un uomo in cerca di se stesso. No, cosa sono adesso non lo so. Sono solo, sono il suono del mio passo. Ma intanto il sole tra la nebbia filtra già il giorno. Come sempre sarà. Piace, fai sentire anche la tua voce, Carlo, l'altro Carlo. Fai sentire. Buonasera che ci tutti. Sei. Ecco, ci sono, ci sono. Che bel brano, dove l'hai pescato? È un... A gratis. A gratis. Che, sì, voi dovete sapere che... Stavo anche seguendo. La nostra radio è no profit. Stavo seguendo Antonello Venditti che si arrabbiava su Facebook perché gli avevano bloccato un brano di sua proprietà. Ah. Ha fatto una diretta, dice, ma questo brano è mio perché gli avevano bloccato. Insomma, non purtroppo. Fate arrabbiare Antonello. Poi ci bloccano comunque, ecco perché sì. Usiamo questi... Ma non sono fake, questo sono cover. Cover. Allora, ci saluta Orietta D'Armi, che è naturalmente la presidentessa dell'Abruzzo. Dell'associazione, dell'Abruzzo che piede, cammina. Abruzzo a piede libero, no, Abruzzo che cammina. E Marco, credo che Orietta sia stato un po' il deus ex machina di questa iniziativa, vero? Mi pare esattamente, esattamente. Le tue sì. Parole. Come ho detto anche inizialmente, diciamo, è partito tutto da una sua idea e soprattutto è partito tutto dai suoi piedi, dalle sue gambe e dalle sue camminate. Perché, come avevo detto, già nel 2017 si è messa a camminare, prima da sola, poi con qualche amico, qualche amica, poi sempre di più, fino a diventare ad oggi circa 300 persone, come ho detto. E c'è da ringraziarla. Sembra storia di Forrest Gump. No, veramente, ma i chilometri macinati, le volte che si è persa, e l'acqua che ha preso, e il GPS che non sapeva utilizzare, le volte che mi ha chiamato perché gli si bloccava e doveva tornare indietro, e è stato veramente un'impresa da parte sua. Anche questa è un'esperienza. Anche sì, ma è così, è l'esperienza vero. Dentro l'esperienza. È così, è vero. Io, ad esempio, anni fa, io sono uno che va in bicicletta, e naturalmente chi va in bicicletta sa anche che ti puoi perdere. Anni fa io stavo proprio percorrendo delle strade interne della nostra provincia e una volta ho incontrato un inglese, una volta ho incontrato un francese, no, uno svizzero, mi ricordo, che mi dicevano, si trovavano nelle parti di Villa Bozzi, mi dicevano se andavano bene per Roseto, quindi segno che si erano persi, poverini. E da lì poi mi venne in mente appunto di dar vita a una piccola iniziativa, di fare un po' una, sono stato una delle prime cicloguide della zona, poi ho abbandonato, adesso ce ne sono, però ci sono amici miei che fanno questo lavoro appunto con le bike, poi con le bike elettriche, è più semplice, però questo è il segno, questo è stato uno dei primi segni che io ho interpretato per quanto riguarda appunto il cambiamento del turismo. Poi questa cosa l'abbiamo anche certificata e notata nel parco marino di Torre Cerrano, e lì, anche lì, attraverso studi fatti dall'Università di Bologna, veniva fuori appunto che il turismo stava cambiando, e questo stiamo parlando di 5-6 anni fa. Immaginiamo adesso, no, dopo la pandemia, che succederà, quindi credo che tutto sarà tutto ridimensionato. E quindi credo che l'iniziativa posta in essere da voi sia proprio, vada in quella direzione e sia veramente eccezionale. Però una domanda non abbiamo fatto a Marco. Quando prevedete più o meno che possa essere pronto questo cammino, questo progetto? Quando può prendere veramente piede? Inizialmente diciamo che abbiamo deciso di creare i primi circa 100 chilometri, quindi di segnare i primi 100 chilometri e di rendere i primi 100 chilometri effettivi. Che succede? Successo, scusa un attimo, sente la musica e non si sente più male. Sentite? Sì, ma sentiamo la musica un po' troppo alta. Ecco qui, vai. Ho toccato maldestramente il mouse. Questo adesso Radio 105. Sei troppo scatenato, Carlo. Radio 105 ci prenderà in giro per tutta la settimana. Va bene. Blob. Vai, Marco, scusami. Quindi, come dicevo, il primo obiettivo è quello di creare un primo tratto completo al 100%, quindi di segnaletica, di strutture che hanno aderito all'iniziativa, quindi poter fornire al viandante la prima tratta di 100 chilometri. Speriamo di riuscirci entro la fine dell'estate. Per quanto riguarda completare tutto il cammino, sinceramente non so darvi una data definitiva, perché come vi dicevo, per far sì che un cammino sia poi e definitivo, diciamo, c'è anche un iter che deve passare, deve essere riconosciuto prima a livello regionale e poi a livello italiano, quindi diciamo sicuramente più veloci saremo noi e più il tutto sarà veloce, però dare una tempistica adesso è un po' difficile, anche perché, come dicevo, la parte difficile arriva ora, perché appunto per la segnaletica soprattutto abbiamo bisogno di disponibilità economica. E quindi diciamo, prima di tutto dobbiamo avere questa disponibilità e poi possiamo fare quello che vogliamo, no? Questo è il succo. Scusami Marco, ma il protocollo che avete siglato la scorsa settimana, quindi le province in che modo si impegneranno? Le province si impegnano, diciamo, a far conoscere il cammino d'Abruzzo sul territorio, quindi facendolo conoscere effettivamente a chi? Ai comuni, soprattutto quelli che poi vengono interessati dal cammino d'Abruzzo. Poi noi speriamo anche un po' nel buon senso, un po' nella volontà dei vari comuni che ci vengano incontro, soprattutto per la segnaletica, questo sì, perché magari confidiamo in loro in un aiuto, non magari direttamente proprio dai comuni, ma magari dalle piccole associazioni, dalle proloco che poi ci sono nei comuni. Possiamo sentirci, organizzarci, incontrarci e far sì che, diciamo, ognuno, come noi tra l'altro, nel proprio piccolo riesca a fare qualcosina per far sì che tutto ciò alla fine diventi vero e concreto. Ecco, noi allora facciamo un appello a tutti quelli che insomma in giro ci possono ascoltare e promettiamo che diffonderemo questa notizia, perché faccio un esempio banalissimo. Io ho visto che il vostro percorso passa anche attraverso l'oasi dei Calanchi, se non sbaglio. Sì, certo, passa da Pineto, sì. Atri, Città Sant'Angelo, poi va verso, sì, Chiaramano, Roseto, Notaresco, Morrodoro. Sì. Sì, sì. Beh, lì qualcosa già si potrebbe fare, anche segnalare, insomma, o comunque ci potrebbe essere questa sinergia. E come dicevi tu, magari il percorso Città Sant'Angelo Atri, che immagino passi poi nella zona di Tre Ciminiere e poi vada verso Città Sant'Angelo, credo che sia quello un po'. Se vai sul sito è tutto tracciato, c'è proprio la mappa il GPS, le altimetrie, il viandante può vedere tutte le tappe, sono descritte, c'è il livello di difficoltà, la durata, i chilometri, la pendenza. Abbiamo fatto veramente un grande lavoro. È vero, sì, l'abbiamo visto, la dottoressa infatti qui ha stampato tutto. Abbiamo visto il sito e vi facciamo i complimenti perché è un sito veramente, ecco, già il sito credo che sia importantissimo. Sì, il sito credo che sia una è un biglietto da visita. Sì, vogliamo, cioè, l'intento è proprio quello, far vedere che comunque ci siamo, che ci siamo veramente e che ci siamo impegnati, come ho detto. Ma inizialmente ci sono delle foto bellissime. Grazie, queste sono state tutte quante, diciamo, donate da vari associati che sono venuti con noi e che hanno scattato fotografie per noi. Benissimo, allora dobbiamo andare pure sì. noi. Ci dobbiamo associare. Sì, ecco, l'appello, ecco, adesso lo facciamo vedere, lo manderemo in onda il vostro sito, in modo che se qualcuno ha voglia ci va direttamente. Anzi, io ve lo consiglio di andarci. Perché, magari, Carlo, sotto la diretta puoi mettere anche il link. Il nostro regista ormai il nostro regista è diventato... È attivissimo. Un fenomeno. dicevo che... sì, insomma, l'appello adesso è a tutti gli abruzzesi, in qualche modo, no? L'appello è rivolto a tutti gli abruzzesi, a tutti quanti. Di buona anche volontà. Anche dei semplici cittadini che hanno voglia di aiutarci una domenica che non hanno da lavorare, ad esempio. Perché sì, quello è vero. È la stessa cosa che facciamo noi. E Orietta lavora tutta la settimana, è una mamma, è una lavoratrice, e nei ritagli di tempo è andata a camminare, ha creato il percorso e adesso dobbiamo continuare perché non è finita. C'è ancora tanto da fare, quindi più siamo meglio è. Benissimo, guarda, noi, io lo ripeto sempre un po' a quelli che contattiamo, che poi hanno la cortesia, no, di a rispondere ai nostri appelli come te. Noi, ma di stare anche un'ora con noi. Sì, ma il nostro appello, no, il nostro, quello che possiamo fare noi come emittente, come radio, è proprio quella di diffondere, fare un po' da megafono per le vostre iniziative. E poi quando sono iniziative come queste, insomma, veramente la cosa ci riempie anche un po' d'orgoglio, ma anche come abruzzesi, vero? Ma certo, soprattutto come abruzzesi, perché noi facciamo vedere che la nostra regione è attiva e fatta anche di gente. Ma fondamentalmente noi non abbiamo nulla da invidiare alle altre regioni. No, su questo lo abbiamo detto, assolutamente. Io su questo sono eccessivamente partigiano, nel senso che l'Abruzzo è veramente uno scrigno di è una cosa che io ripeto spesso nella mia opera, tra virgolette, di divulgatore, è proprio che noi abruzzesi, le nostre ricchezze anche culturali, e questa è una cosa, perché noi quando si parla d'Abruzzo spesso si parla, quasi sempre ormai si parla di bellezze naturalistiche, di cibo, perché il nostro cibo è ottimo, il nostro vino è ottimo, eccetera, ma non si mette l'accento, a mio avviso, giusto sulla cultura. L'Abruzzo è stato per secoli veramente scrigno di cultura, di movimenti anche culturali importantissimi. Io penso esclusivamente al monacanesimo che ha capovolto anche il volto della Chiesa da San Francesco fino ad arrivare a Celestino V. Su questa terra, non a caso c'è il cammino di San Tommaso, su questa terra si sono verificati eventi importanti culturali, e noi credo, noi abruzzesi abbiamo il dovere un po' di riportarli riportarli a galla. Ecco perché i complimenti che vi facciamo sono veramente sinceri, perché con semplicità state rimettendo in, in circolo veramente un grandissimo tutto il nostro patrimonio, perché leggo anche sul vostro sito c'è cultura, c'è natura, c'è tutto nel, nell'intenzione. E poi il abbiamo discorso... tutto in Abruzzo e quindi c'è tutto nel cammino. Cioè, noi cerchiamo di far scoprire semplicemente quello che già c'è, nulla di più. E poi ciò che è bellissimo è che tutto viene dal basso, tutto viene dalla gente normale. Poi sicuramente poi ne potremmo essere certi che sul carro del vincitore, Marco, da qui a qualche anno saliranno in molti, però insomma non fa niente, non è un problema. Noi cerchiamo di dare il meglio che possiamo e cerchiamo di realizzare questo progetto, che è la cosa che più, diciamo, al momento abbiamo a cuore, quindi ci stiamo mettendo tutto quello che possiamo e speriamo, appunto, la cosa che più mi preme che passi oggi è che appunto stiamo cercando aiuto per riuscire a completare questo progetto. Quindi ripeto, appunto, chiunque, associazioni, comuni, eccetera, chiunque voglia aiutarci, noi ci siamo, ci possono contattare come vogliono, sulla mail, sul sito, sui canali social, e siamo pronti, diciamo, ad accogliere chiunque ci volesse dare una mano. E noi possiamo testimoniare che sono anche molto disponibili. No, io semplicemente vi voglio ringraziare sia per la cortesia che ci avete usato questa sera, ma soprattutto per quello che state facendo. Per quanto ci riguarda come radio, io lo ripeto a tutti quelli che contattiamo e che poi insomma scegliamo per i nostri programmi, voi ci potete usare come volete, ormai i numeri ci sono, ce li siamo scambiati, e qualsiasi cosa ritenete opportuno fare insieme a noi, noi saremo a vostra disposizione, perché insomma lo meritate. Grazie mille, grazie mille, siete stati davvero gentilissimi e ringraziamo noi voi per l'opportunità che ci avete dato di parlare del Cammino d'Abruzzo e soprattutto anche per la risonanza che poi può avere e la diffusione in generale, e appunto per far sì che tutti quanti ne vengano a conoscenza. Quindi naturalmente sì, no, dicevo semplicemente così, tecnicamente il programma poi sarà rimandato, come spesso accade qui da noi, sarà rimandato sulle nostre pagine social, quindi è registrato. E poi altra cosa importante, noi i nostri programmi li registriamo e li mettiamo nel nostro archivio, vero? Sì, li mandiamo anche per radio. Sì, ma dicevo... Sì. E poi tra qualche anno faremo concorrenza alla radio. Poi tra qualche anno, quando avrete completato e ci inviterete alla festa a conclusione, noi lo ritireremo fuori e diremo siamo stati i primi a dare fiducia a questa bellissima associazione. Bene, non ci rimane altro che salutare. Sì. Ci salutiamo. Grazie mille Marco. Ringraziamo il nostro ospite, ripeto il nome. Marco Straccini. Ringraziamo anche la presidente, la presidentessa Orietta Darmi. Non ringraziamo Tommaso Navarra e Angelo Caruso che erano stati non li ringraziamo. Che erano stati contattati, ma si sono dati alla macchia, non a piede libero. Però laddove volessero collaborare con l'associazione Abruzzo a piede libero, li ringrazieremo. Sì, ma loro hanno già detto che partecipano, però insomma. Così non si fa. E niente, allora buona serata a tutti. Marco, buona serata anche a te. È un grandissimo bocca al lupo. Grazie per l'invito a nome mio e del Cammino d'Abruzzo e dell'Associazione Abruzzo e Piede Libero. Grazie, buona serata. Buona serata a tutti.